Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata cari radioascoltatori. Ebbene, oggi faremo un viaggio nel sale, andremo nelle saline, parleremo delle varie tipologie di sale e poi in fondo faremo anche così una chiosa tra sapido e salato, le differenze e perché ci esiste questa differenza. Bene, vorrei ricordare solo che l'importanza del sale, la città di Gerico fu fondata come mercato del sale, è stato in passato perfino un mezzo di pagamento e senza sale non potremmo mangiare baccalà, formaggio, prosciutto e salumi. Bene, cominciamo a fare un giro delle saline italiane. Vorrei ricordare che da 144 del passato, oggi quelle attive sono circa una decina, quindi veramente c'è stata una decimazione e appunto quelle poche rimaste devo dire che sono bellissime e vale la pena di andarle a visitare, così come si vanno a visitare le cantine, così come si vanno a visitare i frantoi, perché il paesaggio è davvero spettacolare, specialmente in questo momento quando c'è la raccolta del sale. Cominciamo il nostro giro da Marsala, dalle saline Ettore e Infersa, che sono appunto a Marsala, di fronte all'isola di Mozia. E abbiamo con noi il proprietario, che è anche professore di fisica sperimentale all'Università di Palermo. Buongiorno a Giacomo Dalista Iti. Buongiorno. Professore, le voglio chiedere questo. Io sono stato un mesetto fa e ho comprato un sale che si chiama Soffi di Sale e costa molto più degli altri. Ma cos'ha di particolare questo Soffi di Sale? Beh, i Soffi di Sale sono la declinazione italiana del fior di sale, del fior de sel francese. È vero, costa molto di più, così come il fior de sel costa molto di più del sale normale, ma è un sale diverso. È un sale che contiene una quantità di oligoelementi in termini di clorurati di magnesio, potassio soprattutto, e una piccola percentuale di iodio che ne fanno un condimento completamente diverso. Non lo useremo certo per condire la pasta, però è veramente. E poi forse il motivo per cui c'è questa reale differenza di costo è che su una produzione che nel comprensorio trapanese, sulla fascia che va da Trapani a Marsala, è di circa 100.000 tonnellate di fior di sale, soffi di sale come lo chiamiamo noi, se ne fanno 10-15 tonnellate, non di più, rigorosamente raccolto a mano. Non si può che raccogliere a mano perché è un sottilissimo velo di sale che si forma sulla superficie dell'acqua e rimane in sospensione e va tolto immediatamente a mano, va schiumato via dalla superficie delle vasche. Quindi è un prodotto che è preziosissimo, è difficile chiamarlo sale come gli altri, sono soffi di sale. Bene, vorrei ricordare ai radioascoltatori che possono intervenire, numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Vorrei chiederle un'ultima cosa, è già finita la raccolta del sale da voi? No, non ancora. C'è stata una settimana di piogge piuttosto continue, ma per fortuna non sono state talmente intense da bloccare la evaporazione, quindi ancora la raccolta, sia la raccolta manuale nelle saline di Ettore Infersa di Marsala, sia il resto della raccolta del sale su tutta la costa che collega Trapani a Marsala è ancora in pieno svolgimento, anzi stiamo proprio raccogliendo in queste settimane il nostro prodotto annuale. Quindi si può venire ovviamente a visitare. Grazie. Assolutamente sì, la salina Ettore Infersa è proprio aperta ai visitatori. Grazie a Giacomo Dalista Iti. Bene, ora addirittura andiamo in Slovenia. Andiamo da Maja Makovec, che è la ranger del Parco Naturale della Salina di Siciola. Buongiorno Maja. Buongiorno, salve. Voi state raccogliendo il sale anche voi in Slovenia? Oggi no, perché piove. Il periodo da noi finisce di solito a settembre, fine agosto-settembre, perché stiamo ancora usando la produzione tradizionale con il tempo. Quindi si può raccogliere, raccogliete anche voi a mano? Sì, anche noi, però nel periodo estivo. Ho capito. Avete un sale particolare, diciamo di primissima qualità, che va raccolto a mano e quindi molto diverso dagli altri? Il sale da noi si raccoglie tutto a mano, però c'è questo sale, il sal de Piran, che è il sale di prima categoria, il sale sempre tradizionale, però l'acqua deve essere molto salata. Se parliamo della salinità del mare, che da noi è 38 grammi di sale su un litro d'acqua, Allora, per fare questo sale di prima categoria dobbiamo alzare la salinità oltre i 280 grammi di sale su un litro d'acqua. E poi c'è il fioretto, che è fioretto o fior di sale che si raccoglie qua, dove anche la salinità dell'acqua deve essere altissima e non puoi farlo tantissimo. Per esempio, in 3 mesi, se parliamo di produzione media, se il tempo è buono, si può fare soltanto all'incirca, siamo sulle 25 tonnellate. Bene. Di questo fior di sale. Grazie a Maya Makovets. Ora passo la linea alla regia per sentire la viabilità, poi torneremo fra poco. Grazie. Eccoci di nuovo a parlare di sale, saline, sapido. Bene, abbiamo tantissime già sms. Abbiamo Carla dalla provincia di Milano in linea. Buongiorno Carla. Buongiorno, senta, io dovrei usare sempre il sale non iodato. Che cosa devo fare? Credo che tutto il sale sia iodato, venendo dal mare, no? Ora lo chiediamo subito ai nostri esperti, ma rimanga con noi e le daremo una risposta, così come qual è la differenza fra il sale marino e il sale gemma, da Mauro da Venezia, qual è la caratteristica del sale dell'Himalaya, da Verona, un altro radioascoltatore, che differenza c'è tra sale alimentare e quello della lavastoviglie? Insomma, potrei continuare ancora. Tantissime sono le domande, sicuramente riusciremo a dare risposta. Ora abbiamo con noi il professor Gian Siracusa, che insegna storia dell'architettura alle Belle Arti di Catania. Bene, voglio chiedere al professore, appunto, come mai a Siracusa le saline sono state dismesse? Intanto buongiorno. Allora, le saline a Siracusa sono scomparse con l'avvento del sistema industriale. Noi avevamo su tutta la fascia costiera siciliana, in particolare nelle zone umide, nei pantani, vaste estensioni di saline. Il sale era una ricchezza straordinaria, innanzitutto per i greci pagavano con il sale e con il sale conservavano diversi prodotti naturali, non ultimo il pesce. Certo. Il sale è stato importante anche per lo Stato unitario, perché si riscuoteva il dazio con la coltivazione del sale. Ecco, professore, purtroppo invece nella zona siracusana è accaduto che negli anni 50 il sistema petrolifero ha invaso le zone più importanti, che sono per l'appunto le zone umide, i pantani in cui si coltivava il sale. L'industria ha cacciato purtroppo questa antica produzione. Questo è il primo motivo, appunto, che da 140 siamo passati solo a una decina. Questa di Siracusa dipende dall'arrivo dell'industria, poi vedremo in altre parti. Grazie professore. Ora sentiamo Ivana da Arezzo, una radioascoltatrice. Buongiorno Ivana. Buongiorno, io volevo sapere se ci sono dei sali molto meno aggressivi, siccome che io sono allergica al sale dopo una cura, cioè mangio qualsiasi cosa che mangio salato, mi dà in bocca, mi si creano delle nasse, delle piaghe, devo mangiare tutto sciocco. Se ci sono, ho sentito parlare dei soffi di sale, che tipo di sale è? Beh, sempre un sale. Comunque alla sua risposta, ora la sua risposta avremo fra poco il nostro nutrizionista Michele Sculati, e sicuramente, anzi lo invito già a prepararsi su questa domanda. Grazie a Ivana d'Arezzo, ricordo 800 24 00 24, messaggi 349 238 6666. Ebbene, ora abbiamo con noi un grande esperto, abbiamo un chimico docente universitario, autore di un libro bellissimo che è uscito ultimamente, Dario Bressanini, il quale in un capitolo di questo libro, di cui sono smentite molte bugie, molti luoghi comuni, sul cibo e sul mangiare, c'è tutto un capitolo sul glutammato. E perché ho chiamato Bressanini? Perché voglio parlare un secondo con lui della differenza tra salato e sapido, anzi, se ci può dire qualcosa su quando si dice che un cibo è sapido. Buongiorno Dario. Ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, ci sono 5 sapori fondamentali, 4 in Occidente li riconosciamo da tempo, quindi c'è l'acido o l'aspro, diciamo così, il dolce, il salato e l'amaro. In realtà ne esiste un quinto che è stato riconosciuto in Occidente solo ultimamente, che è il sapido, o come si dovrebbe più correttamente dire l'umami, che invece in Asia è riconosciuto da tempo. Il problema è che le tipiche ricette in Occidente, normalmente quando diciamo, contengono delle sostanze, tipicamente glutammato, che stimolano questo sapore, questo sapido, questa sapidità, sono associate anche al sale. E quindi per lungo tempo si è, diciamo, c'è avuta una grossa difficoltà anche culturale nel mondo occidentale a riconoscere questo tipo di stimolazione sensoriale. Mentre nella cucina orientale, che spesso fanno ad esempio delle zuppe giapponesi come il dashi, che sono, non sono salate, ma contengono questa sostanza che deriva da un'alga, nel loro caso, che stimola la sapidità. In realtà anche moltissimi cibi europei, italiani, sono ricchi di glutammato e quindi sono molto saporiti. Ad esempio il parmigiano ne contiene una quantità notevolissima ed è per questo che lo consideriamo molto saporito. Solo che appunto viene normalmente associato anche al salato, per cui è difficile per il palato occidentale riuscire a distinguere le due cose. Ecco Dario, vuoi dire il titolo del tuo libro e l'editore? Perché credo che questo capitolo sia veramente importante sul glutammato che hai scritto. Il libro che ho scritto si chiama Pane e bugie, e per Chiare Lettere l'editore. Bene, grazie Dario di questa chiarezza tua su questo argomento che è sempre stato molto confuso, sull'umami, di cui veramente si conosce ben poco, anzi fino a qualche tempo fa era abbastanza sconosciuto, se non arrivava dal Giappone, diciamo, questa informazione. Bene, continuiamo questo nostro giro delle saline e ora andiamo a Cervia da Oscar Turroni, che è presidente del gruppo culturale Civiltà Salinare, un ex salinaro. Buongiorno Turroni. Buongiorno. Allora, Cervia ha una peculiarità importante, ha un sale, anzi prima le voglio chiedere questo, lei che è un esperto, esistono sali non iodati? Beh, sali non iodati, veramente lo iodio se ne va con l'asciugatura del sale. Il nostro, che ha una piccola quantità di percentuale di acqua, c'ha un po' di iodio. Naturalmente non è sale iodato, il sale iodato viene aggiunto lo iodio poi dopo. Quindi esistono, quindi questa nostra radioascoltatrice può stare tranquilla, insomma, per poter consumare, quindi può trovarlo benissimo. Senta Turroni, ci spiega cos'è questo sale che è diventato molto noto, il Camillone di Cervia? La salina Camillone è una salina artigianale a raccolta multipla. Adesso ne è rimasta una perché, come sappiamo, alla fine degli anni 50 sono state trasformate, erano 149 saline e quindi erano condotte artigianalmente dalle famiglie, quindi salinare è un lavoro che non è molto facile, si tramanda da padre in figlio, e questa salina è rimasta dalla trasformazione che è diventata poi una salina industriale. Questa Camillone, perché ogni salina aveva il suo nome, diciamo, noi l'abbiamo rimessa in funzione da circa 20 anni ancora, e ricaviamo questo sale raccolto in 5 giorni. Pensi che è l'unico sistema in Italia di raccolta del sale in questo modo, e con questo sistema si ottiene un sale diverso, cioè è chiamato il sale dolce. Ho capito. Sale dolce perché nel sistema di raccolta del sale, che viene raccolto con l'acqua dentro, è raccolto in 5 giorni e l'acqua che rimane poi viene poi eliminata e rinnovata, è un sale molto puro, cioè non ha sali potassici, che sono quelli che rendono il sale poi duro e amaro. Bene, io la ringrazio e invito tutti ad andare a visitare, oltre che le saline di Marsala, anche queste saline di Cervia, perché sono un bellissimo spettacolo. Poi ci sono un sacco di manifestazioni in questo periodo e soprattutto si può assistere anche sicuramente alla raccolta del sale, però ci sono, come dicevo, vengono organizzate visite, vengono organizzate, ma ci sono anche delle feste attorno alla sale delle saline di Cervia. Sentiamo Vallì dalla provincia di Milano. Buongiorno Vallì. Vallì, un attimo che gliela passo, un attimo. E cosa succede? Ah, pronto? Pronto, si sente poco. Sì, mi dica velocemente per cortesia. Ah, ecco, senta, io mi hanno regalato un sale che si chiama Himalayano. Sì. Volevo sentire veramente se le proprietà che ci sono scritte sono consone oppure c'è qualcosa che... Ha controllato bene rosa quel sale? Sì. Benissimo sale, bisogna vedere se lo hanno scritto, probabilmente ha delle proprietà, ma anche i sali italiani hanno tantissime proprietà. Oggi il sale himalayano e tanti sali colorati sono molto diffusi nelle cucine italiane perché servono anche per cromatismo ai piatti, quindi sicuramente il costo è davvero molto alto, bisogna vedere poi sicuramente se questi sali sono così veramente migliori degli altri. chissà. Comunque è vero, ha delle proprietà particolari. Ora poi avremo qualcuno che ci parlerà della differenza tra i sali e chiederemo, ma io credo che la cosa principale sia la differenza di colore, proprio perché i grandi cuochi hanno cominciato a usarla. Sentiamo Cristian da Verona. Buongiorno Cristian. Buongiorno Paolini, finalmente riesco a parlare con lei. Sento una domanda rapida, volevo sapere magari qualcosa in più su come si formano queste saline, cioè se sono naturali, qual è l'opera dell'uomo per farle produrre sale. Bene, grazie della domanda Cristian, perché abbiamo con noi Vittorio Ciocca, che è amministratore delegato del Parco della Salina di Cervia, che sicuramente ha sentito la domanda, e prego Ciocca di rispondere. Beh, le saline, quelle marine ovviamente, devono avere un ambiente particolare, devono avere un fondo argilloso dove l'acqua può trattenersi senza infiltrarsi nel terreno, e avere delle condizioni climatiche che consentano l'evaporazione sfruttando il vento e il sole. La salina di Cervia ha quasi 2000 anni ed è una salina marina dove la produzione avviene con delle caratteristiche particolari che tengono conto delle condizioni climatiche non sempre favorevoli, come quelle di quest'anno, dove la piovosità è più elevata, la temperatura è meno elevata rispetto a quella della Sicilia o del Nord Africa, per cui anche il metodo di produzione deve essere un metodo che consente di raccogliere il sale prima che le piogge lo disciolgano. Ecco, lei ha parlato appunto di piogge di quest'anno. C'è differenza qualitativa secondo le annate, secondo diciamo il clima? Diciamo che prima di tutto è una differenza quantitativa, perché ovviamente quando le condizioni climatiche non lo consentono, la produzione è molto più ridotta. Quest'anno, per esempio, la salina di Cervi ha raccolto circa la metà del sale prodotto lo scorso anno. Ho capito, quindi e la quantità. Quindi, ma la qualità non cambia, no? Grazie a Vittorio Ciocca e Oscar Turroni. Ora passo la linea alla regia. Torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Continua il viaggio nelle saline tra salato e sapido. Numero verde 800 24 00 24, messaggi sms 349 238 6666. Abbiamo ricevuto moltissimi sms e anche una radioascoltatrice in diretta ha chiesto: ma cosa c'ha di particolare questo sale dell'Himalaya? Ebbene, io lo chiedo a uno dei più grandi esperti di sali in Italia, che è il direttore del ristorante La Pergola di Roma. Buongiorno Umberto Gilaudo. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ci sveli il mistero di questo sale dell'Himalaya, cosa c'ha di così importante? Beh, ci sono due motivi che hanno portato alla fama di questo sale. Prima di tutto perché viene addirittura dalle più grandi miniere di sale del mondo e quindi è sicuramente la località più conosciuta e più importante dove possiamo trovare questi sali, che non sono dei sali marini ma sono dei sal gemma. Quindi ecco, bravissimo. Poi mi fai la differenza tra sale marino e sal gemma. Questa è la prima differenza. Questo è un sal gemma e venendo da questa salina molto importante è stato facilmente diffuso, e la sua particolarità è che questo sale contiene la quasi totalità di tutti gli elementi oligominerali che troviamo anche nell'organismo, quindi un po' di sale, un po' di zinco, un po' di ferro, tutto ciò che può servire giornalmente al nostro organismo, e quindi è stato un motivo, oltre a quello della sua provenienza, anche un motivo di salubrità del sale che ha fatto sì che essere così famoso. Ovviamente ne esistono altri di questi sal gemma, vengono anche dal Sudafrica e dal Perù, ne esistono anche in Italia stessa, abbiamo delle piccole miniere di sale. Però dove sono in Italia? Certamente abbiamo i sali marini che sono più diffusi anche nel nostro ristorante, allora lì abbiamo una varietà. No, volevo chiederti, hai detto miniere di sal gemma in Italia, ce n'è qualcuna, hai detto? Sempre in Sicilia abbiamo dei piccoli sal gemma anche di colore ricchi in carbonio, e quindi hanno un colore un po' più scuro del solito, sono quasi neri. Come quello che viene dalla Hawaii, quello del Vero. Quasi uguale, il colore può dare un po' di confusione, ma in realtà quello che viene dalla Hawaii, che è nero, è sempre un sale marino bianco naturale, che viene fatto invece essiccare con una polvere di lava che viene aggiunto, quindi c'è l'aiuto dell'uomo, quindi per ottenere questo tipo di tipica colorazione scura, che viene aggiunto nel momento dell'essiccazione. E quello rosso? Quello rosso ha più o meno lo stesso procedimento, però viene chiamato Becket Red Clay. Il Red Clay è un fango ricco di ferro, e quindi questo ferro, infatti la quantità di ferro in questo tipo di sale rosso è 5-6 volte superiore alla normale, è soltanto una terra, un fango ricco di ferro che dà questa colorazione sempre al momento dell'essiccazione. Quindi sono dei sali naturali al 100%, però diciamo che c'è l'aggiunta dell'uomo nella sua finitura e rifinitura finale. Umberto, tu sei una vera enciclopedia, io ti ringrazio perché ci hai dato uno spaccato straordinario e hai risposto a molte domande che erano qua tra gli SMS. Grazie tante Umberto e a presto. Un saluto a tutti quanti. Sentiamo Rosanna da Cremona, buongiorno, una radio ascoltatrice. Mi dica, prego. Buongiorno. Senta, a me ogni tanto regalano il sale di cervia. Sì, ne abbiamo parlato prima, signora, non so se ha ascoltato. Sì, ho sentito. Sì. Però poi dietro c'è tutta una tabella organolettica che dà degli elementi, ma le qualità e il prezzo, cioè il rapporto qualità-prezzo, che mi pare che vendano a peso d'oro, cosa... Dipende appunto, alla raccolta a mano, signora, sicuramente costano molto di più. Lei pensi che raccogliere a mano ci vogliono sicuramente tante ore e non è una raccolta a macchina come succede con la meccanica, come succede con tanti altri sali. Quindi la raccolta cervi ha questo particolare camillone, come tante altre saline, abbiamo detto prima anche quella di Marsala, hanno diverse tipologie di sale, alcuni con raccolta meccanica costano meno, altri con raccolta manuale ovviamente costano di più, basta calcolare il costo della manodopera. Grazie a Rosanna da Cremona, sentiamo Enzo dalla provincia di Cuneo. Ciao Enzo. Ciao Davide, sono Enzo di Mondovì. Sì, dimmi. E volevo solo dire che, data l'importanza del sale che ha sempre avuto per la conservazione dei prodotti, soprattutto nel nord, quindi in Piemonte, al fine del 600 in Savoia avevano messo una grossa tassa sul commercio, sul trasporto del sale dalla Liguria verso le nostre zone, e quindi ci sono state in quel periodo delle grosse guerre, proprio chiamate le guerre del sale, fra gli abitanti della nostra zona che avevano il collegamento più diretto con la Liguria passando per le vallate alpine contro i Savoia che invece imponevano questa tassa. E questo è documentato in grossi volumi proprio su questa guerra, su questa roba. Ma io vorrei anche aggiungere a questo che esiste una via del sale molto importante, che è quella degli acciugai, che portavano appunto dalla Liguria le acciughe in Piemonte, quindi è una via storica molto, molto importante, che credo sia stata anche ricreata dal punto di vista turistico. Ebbene, anche sulle acciughe, prima mi sono dimenticato, ho parlato di baccalà, formaggi, prosciutti, ma ricordiamo anche il pesce, quanto pesce sicuramente sarebbe andato a male, sarebbe putrefatto se non ci fosse stato il sale, e le acciughe sicuramente chiamano il sale. Bene, continuiamo questo nostro viaggio e ora andiamo in Sardegna, andiamo al Parco Molentargius e alle saline di Poetto da Vincenzo Tiana. Buongiorno Tiana. Buongiorno. Cos'è questo Parco Molentargius, ce lo vuole spiegare? Il Parco del Molentargius è un parco all'interno dell'area cagliaritana, circondato da un grande sistema urbano che tra Cagliari, Quarto e Quartuccio Selargius, si abitano intorno a 400.000 abitanti, però ha la particolarità, è proprio una sfida della natura, dell'ambiente rispetto all'urbanizzazione, che ha un sistema naturalistico di grande pregio, e c'è una salina storica dal periodo fenicio, romano, insomma. Ma funziona ancora questa salina? Cioè? Oggi c'è stata sempre la raccolta del sale. C'è ancora tuttora la raccolta del sale? Sale marino, e all'interno di una peculiarità della Sardegna, oltre Molentargius c'è le saline di Santa Gilla, di Contivecchi, ci sono le saline a Sant'Antioco. È una regione con grande potenzialità proprio per il sale marino. Le saline che producono sale marino hanno la particolarità che, oltre a produrre sale, un bene economico, producono ambiente, paesaggio, natura, questa è una particolarità. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, è stato un po' trascurato durante, diciamo, questa carrellata delle saline, ma l'ho ricordato all'inizio, sono importanti dal punto di vista paesaggistico e dicevo prima anche in Sicilia, a Mozia, ma anche a Cervia, ma anche da altre parti, a Trapani, sono davvero uno spettacolo. Bene, è importante sapere che le saline di Sant'Antioco sono ancora attive, perché c'erano così, avevo anche ascoltato notizie in altre direzioni. Quest'anno hanno prodotto circa 150.000 tonnellate di sale. In questi giorni è in corso la raccolta del sale alle saline di Ponte Vecchio a Santa Gilla, che proseguirà per tutto il mese di ottobre. E prima qualcuno parlava di sale raccolto a mano, raccolto con le macchine. Non è quella la differenza, l'importante è che sia fatto bene tutta la procedura, poi si può raccogliere a mano con le macchine. Sì, ma il costo è differente. Alla fine esce un sale bianchissimo. Mi scusi, ma il costo sarà diverso però. Il costo è diverso, però la qualità non lo è. Se la procedura viene rispettata, la qualità non lo è, bene. Differente. Ecco. Grazie a Vincenzo Tiana, presidente dell'associazione Parco Molantargius e Saline di Poetto. Abbiamo con noi ora uno chef importante sloveno che ha introdotto, diciamo, per primo un sistema di cottura su una piastra di sale, ed è Tomas Kafcic, che la sua trattoria si chiama Gostilina Loisetu ed è a Vipava in Slovenia. Ciao Tomas. Ciao Davide, ciao. Senti Tomas, volevo chiederti questo: tu sei forse l'unico chef al mondo che ha una salina propria. Bene, cosa vuol dire avere una salina propria? Vuol dire la qualità del sale, che tu te la curi giorno per giorno? Ma guardate, le saline di Pirano, uno dei posti più belli di Slovenia. Io un po' di anni fa, quando sono andato a visitare le saline di Pirano, mi sono innamorato sia nel posto e soprattutto nella qualità di quella sale. È sale, forse un periodo che non è così apprezzato, sicuro, come non così come una volta. Poi il nostro governo e la ditta che sponsorizza queste saline di Pirano mi ha data in affitto le due saline. Sì. Per un costo simbolico, ma se non lo curi c'è un penale da 10.000 euro all'anno. Questo proprio rispetta il nostro rispetto per la salina, alla natura e alla saline. Soprattutto l'ho affittato perché volevo vedere passo per passo questo lavoro di un salinero, che è un lavoro grande, un lavoro di fatica, soprattutto nel saline di Pirano, perché è tutto fatto come 300-400 anni fa. Bene, grazie Tomas. Io ho parlato del tuo sistema di cottura. Credo che il modo migliore sia, quando si vuol mangiare un branzino, un pesce appunto cotto su una piastra di sale, bisogna venire da te, prendere la macchina, fare un po' di chilometri, ma sicuramente ne vale sempre la pena. Ciao Tomas e buon lavoro, a presto. È andata via la linea. Bene, allora continuiamo, ora passiamo la linea alla regia, torneremo fra poco per ascoltare prima il traffico sulle strade. A fra poco. Il gastronauta. Eccoci sul finale del viaggio tra salini, sali e sapori. Sentiamo Donatella da Milano, una radioascoltatrice. Buongiorno Donatella. Buongiorno signor Paolini. Io ne volevo dire che dieteticamente mi hanno consigliato di utilizzare il sale di miniera, appunto, che si trova comunemente dai tabaccai, perché è molto meno igroscopico rispetto al sale marino, tant'è vero che non esiste in aggregato in forma sale da cucina, sale grosso per intenderci. Devo dire che un po' si fa fatica a trovarlo, perché molti usano quelle sali dietetici che penso siano fondamentalmente un po' più non siano proprio sale di miniera, ma organoleticamente, come sostanze minerarie disciolte eccetera, rispetto al sale marino, che differenza ci può essere? Bene, cade fagiolo, cade fagiolo questa domanda, perché abbiamo appunto chiamato il dottor Michele Sculati, che è un nutrizionista che spesso io faccio intervenire. Michele, hai sentito questa domanda? E stavo chiudendo la radio in modo da non dare fastidio durante la diretta e quindi non l'ho sentita bene, ma credo che si riferisse al sale di miniera, che le hanno consigliato dieticamente il sale di miniera. Ma il sale di miniera, alla fine del giro, la maggior parte dell'ingrediente è sempre cloruro di sodio, la differenza più importante è che sicuramente nel sale di miniera troviamo un po' meno iodio, anche se l'esperto contattato precedentemente in trasmissione diceva giustamente che la maggior parte dello iodio evapora e durante le fasi di lavorazione, quindi io credo che sia abbastanza indifferente la differenza nutrizionale tra i due sali, mentre è significativa nel momento in cui il sale viene iodato. La maggior parte della popolazione dovrebbe usarlo iodato, chi ha problemi tiroidei come una delle radioascoltatrici precedenti invece deve prestare attenzione a questo. Bene, rimani con noi perché Silvana da Torino, buongiorno. Una radioascoltatrice. Pronto Silvana? Sconfina un po' la mia domanda sconfina un po' dalle saline, però siccome sono in età avanzata e ho dei problemi di pressione, sono sempre incerta, non mi piace la roba insipida, però quando metto il sale sulle vivande resto un po' titubante. Ho capito. Allora, che rapporto c'è tra il sale e la pressione di una persona? Michele, a te. Sono due domande assolutamente pertinenti e sicuramente c'è un rapporto molto stretto, anche se si è visto in letteratura che esistono dei soggetti responder, cioè che rispondono alla riduzione di sale, la cui pressione si abbassa se il sale, l'assunzione di sale diminuisce, e persone invece che non rispondono, e quindi a un certo punto è anche giusto non ridurre eccessivamente la gratificazione che il sale può darci attraverso l'esaltazione della sapidità. E così posso fare una piccola precisazione, visto che abbiamo parlato del gusto umami, credo sì. Che sia per dare un'idea ai radioascoltatori di che cosa sia il gusto umami, cioè sapido o saporito. Io faccio questo esempio ai miei pazienti spesso: provate a immaginare di bere un bicchiere di acqua salata, questo non sarà sicuramente un gusto piacevole, è un gusto sgradevole, ecco, questo è il gusto salato in purezza. Il gusto sapido invece può essere quello di una carne a cui poi aggiungiamo il sale per esaltarne la sapidità. Bene, i recettori che abbiamo sulla lingua e nella cavità faringea e che codificano per i due gusti sono quindi totalmente diversi e sicuramente fanno parte di quel sistema complesso di afferenze nervose che poi riescono a darci la gratificazione del cibo salato. Una gratificazione che si è scoperto negli ultimi anni sentiamo non solo con la cavità faringea ma anche con la pancia, perché questi recettori sono contenuti proprio nella mucosa del nostro stomaco. Grazie Michele, continua a rimanere con noi. Luigi da Napoli, un radioascoltatore, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda è basata sul fatto che spesso compro del sale integrale biologico e quindi volevo sapere qualche caratteristica in più. Sale integrale biologico, bene, abbiamo con noi Antonio Dell'Orco che è responsabile della produzione sale dell'Atisale, azienda che opera nella salina di Margherita di Savoia in provincia di Barletta. Buongiorno Dell'Orco, ha sentito la domanda? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ho sentito la domanda. Il sale integrale praticamente è tutto quel sale che ha tutto quello che l'acqua del mare può darci praticamente come oligominerali. E per quanto riguarda invece la nostra salina qui a Margherita, produce esclusivamente sale NaCl puro al 98%. Ci spieghi cosa vuol dire NaCl? Il cloruro di sodio, ecco. Il sale da cucina, certo. Al 98%. Bene, bene, bisogna sempre spiegare perché ci sono molti radioascoltatori che non... Certo, no, ho fatto benissimo perché sì. Nella poca di parlare magari si sì, dice certo. Qualcosa di tecnico, ecco. Grazie. Per quanto ci riguarda... Prego, prego. Dicevo, per quanto ci riguarda, io devo racchiudere un po' tutto quello che si è detto finora per Margherita di Savoia. La salina praticamente è antichissima, risale agli antichi Illiri. Poi è passata ai Romani, successivamente ai Romani che poi hanno lasciato anche traccia attraverso il Salario e la via Salaria, poi fino a raggiungere ad oggi dove a Margherita si raccoglie il sale ogni 5 anni praticamente su ciascun bacino, sullo stesso bacino si ritorna dopo 5 anni. Bene, però la produzione è chiaramente annuale. La fermo un secondo perché abbiamo tante domande e magari lei ci può anche aiutare. Sentiamo Fabio dalla provincia di Venezia. Buongiorno Fabio. Buongiorno, io volevo solo ricordarvi, nel caso non aveste già parlato, di Salisburgo. Io sono stato a Salisburgo in una miniera di sale. Salisburgo dipende, è ancora attiva? Non lo so se è attiva, si può visitare, c'è un trenino che ti porta giù, una bella gita, molto interessante. Dal punto di vista turistico. Sentiamo Maria da Roma, buongiorno Maria. Buongiorno, buongiorno dottor Paolini. Mi dica. Io veramente volevo parlarle proprio di quello di cui ha fatto accenno chi mi ha preceduto, le margherite, le saline di Margherita di Savoia. Bene. Che hanno moltissime vasche di evaporazione, che non erano soggette al danno delle piogge, dato il clima più che soleggiato in tutto l'anno. Grazie. Io ricordo che lì c'era addirittura una fabbrica per il bromo. Bene. Adesso non se ne sa più niente, eppure le saline sono lì. Ancora. Ma guardi che ne ha parlato ora il responsabile addirittura di questa società che gestisce la saline di Margherita di Savoia due secondi prima di lei, quindi sentiamo Roberto da Varese. Buongiorno Roberto. Sì, buongiorno. Volevo parlare riguardo alle proprietà chimico-batteriologiche del sale marino. Il sale raccolto nel mare di Sicilia o di Sardegna su un mare limpido è diverso da quello prodotto in Adriatico. La lavorazione toglie le varie problematiche chimiche, inquinamenti chimici o batteriologici. Bene, sentiamo Antonio Dell'Orco, buongiorno, di nuovo buongiorno. Buongiorno a tutti, dottor Paolini. Dunque, il problema dell'inquinamento, diciamo che il sale già da solo si difende, altrimenti non si spiegherebbe perché serve per la salagione, l'insaccamento, l'insaccagione dei prosciutti, salumi o baccalà e così via. Quindi serve proprio a preservare da eventuali aggressioni di batteri e quant'altro. Resta comunque il fatto che alla fine del procedimento il sale, prima di essere impacchettato, viene lavato con acqua quasi satura, proprio per non sciogliere molto di questo prodotto. Poi viene impacchettato, centrifugato, asciugato ad altissime temperature, per cui anche alcuni batteri che dovessero eventualmente resistere a quelle temperature muoiono, e poi viene impacchettato. Quindi possiamo dire benissimo che il sale è sicuro, diciamo, è quasi al 100%. Grazie Antonio Dell'Orco, purtroppo non ho più tempo, avrei altre domande per Michele Scurati, ma magari torneremo sopra a questo argomento, perché visto che interessa molto. Bene, abbiamo chiuso questo viaggio nelle saline, lo ricordo, anche dal punto di vista paesaggistico sono sicuramente da visitare. Vorrei ricordare, a molti hanno chiesto il testo di Bressanini, Pane e bugie, editore Chiare Lettere. Bene, io ringrazio in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca, in regia il milanista Peter Bescapè. Alla prossima settimana.